ditemi, signori, ho qua una canzonetta di fresco data fuori, vivace, graziosa, che gusto vi può dare, purché la bella sposa ti voglia secondare. Che si dovrà notare, che si può notare, che si può notare, che si può notare, che si può notare, m'han voluto a pranzo questi amabili sposi e mi diverto con questi avanzi. Ed io sono disperato, fuori di me sono io, dottore, ho poco del derevato prima di domani. Adesso tu due dire, cospetto, è matto, recite il delisir, e il colpo è fatto. E veramente amato sarà lei, da tutte io del prometto. Se anticipare l'effetto del delisir tu puoi, devi ne tosto un'altra dose, io parto tra mezz'ora. Caro dottore, una bottiglia ancora? Ben volontier. Mi piace giovare ai bisognosi. Hai tu danaro? Non ne ho più. Mio caro, la cosa cambia aspetto. A me verrai subito che ne avrai. Vieni a trovarmi qui presto, alla pernice, se hai tempo, un quarto d'ora.